chi farà suonare il gatto? Molto tempo fa, nell'attico di una grande casa verde, viveva la famiglia Nibble. No, non una famiglia di umani, ma una famiglia di topi. I Nibble erano un gruppo molto affiatato. Non erano dei topolini normali. Ognuno di essi aveva sempre delle grandi idee per migliorare le cose. Che ne dite di costruire una cucina tutta per noi? E andremo a comprare il cibo al mercato. Oh sì, giusto, sarà così divertente. Ho un'idea migliore. Che ne dite di aprire il nostro supermercato? Faremo enormi profitti e compreremo questa casa. Oh sì, giusto, sarà così divertente. Ma questo è tutto riguardo alle loro idee. Semplici parole. Attenzione a tutti! La signora e suo marito hanno invitato alcuni ospiti a cena oggi e sappiamo tutti che cosa significa. Avremo anche noi un banchetto! Un banchetto! Ero sicuro che stesse per dire una festa. Un banchetto è molto meglio. Sento già il cibo nella mia bocca. Grande, significa che posso avere la tua parte. Lo so, siamo molto contenti di questo. Ma dobbiamo fare attenzione. Dopotutto, questi umani sono esseri potenti, in grado di catturarci men che non si dica. Giusto, sto scherzando, gli umani non potranno mai prenderci. Ma dobbiamo essere prudenti. Ora, Tom e io ci nasconderemo dietro al frigo. Non appena sarà buio, vi daremo il segnale. Marlin e Tom andarono a nascondersi dietro il frigorifero. Mentre camminavano, raccontò a Tom la nuova idea di Jerry Nibble. Lo sai, Tom? Jerry parla di nuovo di dichiarare guerra agli umani. Questo intero pianeta può essere nostro. Wow! Tipico di Jerry! Lui è così forte! Ha spiegato come farlo? No, in realtà non siamo mai arrivati a quella parte. Sono sicuro che penserà a qualcosa. Oh, assolutamente! Noi Nibble siamo così intelligenti! Arrivò la sera e il buio nella grande casa verde. Marlin e Tom fecero il segnale agli altri topi. Ed ecco, ogni genere di cibo adagiato sul grande tavolo di legno. Tutti i topi apprezzarono la festa. Oh, non mangerò mai più. Il membro più saggio della famiglia Nibble era papà topo. Mentre tutti i topi erano sdraiati con le loro pance piene, Marlin si diresse verso un angolo dell'attico per incontrare papà topo. Ciao papà, perché non eri alla festa oggi? Ah, sono troppo vecchio ormai per le feste, figlio mio. Devo stare attento a cosa mangio. Ho mangiato quello che piccolo Sammy mi ha portato, ma perché non stai dormendo? Sono troppo eccitato per dormire. Oggi abbiamo vinto la nostra battaglia contro gli umani. Quindi stavo pensando all'idea di Jerry di dichiarare guerra agli umani. Dichiarare guerra agli umani? Sei fuori di testa? No, è una buona idea. È un'idea inutile. Ah, perché sei sempre così demotivante? Sì, questa è la parola, demotivante. Non sto cercando di demotivarti, figlio mio. Quello che voglio dire è che un'idea, non importa quanto grande, è inutile se nessuno può metterla in pratica. Solo perché abbiamo grandi idee non significa che siamo intelligenti e coraggiosi. Ma la nostra famiglia è intelligente. Vedrai, papà. Dichiareremo guerra agli umani e vinceremo. Marlin era davvero confuso. non riusciva a capire. Come mai una grande idea non era anche un'idea intelligente? Il giorno seguente, quando la signora entrò in cucina, rimase scioccata. Tesoro, vieni qua, per favore. Cosa è successo? Hai mangiato tutto il cibo avanzato la notte scorsa? Cosa? No, niente affatto. Mi sono lavato i denti e sono andato dritto a letto. Certo, non mentirmi. Ricordo che c'era un sacco di cibo in tavola ieri sera. E adesso non c'è più niente? Lo sai che devi rispettare la dieta. Così è. Mangeremo solo frutta oggi, nient'altro. Ma non sono stato io. Smettila di mentire. Ma non sto mentendo! Non l'ho nemmeno guardato il cibo! Gli umani non avevano idea che ci fossero dei topi nella loro soffitta. Ogni volta che avanzava del cibo, i topi lo mangiavano e la signora dava la colpa a suo marito. Poi un giorno, mentre Marlin e Tom stavano mangiando un pezzo di pane, Marlin sentì qualcosa di strano. Aspetta, lo senti? Quello deve essere il gatto del vicino, Coccolino. Che schifo! Che nome è Coccolino? Quel gatto non sembra affatto a posto. E come fanno questi umani a trovare i gatti carini? I gatti sono mostri! Mostri! Ascolta attentamente. Quello non è Coccolino, quello è un altro! E si sta avvicinando! Marlin e Tom si affrettarono a vedere cosa stesse succedendo. No, no, no! Questo non deve accadere! Hanno un gatto? Un gatto? Chiati, titi, oh! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non riesco a respirare! Non riesco a respirare, Tom! Sto morendo! Va bene, tutto a posto. Ricorda il nostro esercizio di autocontrollo. Gestisci le emozioni! Osserva il retro della tua mano! A cosa stai pensando adesso? Oh sì, giusto, questo dovrebbe funzionare. Osserva il retro della tua mano perché una volta che il gatto ci avranno usato non ci sarà più la mano! Questo è un disastro! Chi gli ha messo la testa questa stupida idea di portare a casa un gatto? Voglio dire, quelle grandi creature pelose e baffute hanno baffi, sembrano così strani. Ciocche di pelo orribilmente disposte accanto alla bocca! Marlin, ce l'abbiamo anche noi. Di che squadra sei, amico? Dobbiamo organizzare una riunione di emergenza. Come hanno potuto farci questo? Siamo arrivati prima noi qui. Questa è la nostra casa. Va bene, forse stiamo reagendo in modo esagerato. Non tutti i gatti mangiano i topi, giusto? Forse questo gatto è vegetariano. Forse mangia l'erba. Questo è così stupido! Dico di andare avanti con le nostre vite! Senza paura! Sì, hai ragione! Vai! Bene, ha ragione lui. Questa è la nostra casa. Siamo arrivati per primi. Scacciamo via quella piccola creatura pelosa! E così fu deciso. I topi avrebbero continuato a vivere come sempre. E avrebbero affrontato lo spaventoso animale. I topi cominciarono a girovagare, un po' spaventati, ma pieni di coraggio. Ma le cose non andarono come previsto. Stava dividendo la famiglia. Lentamente i topi della famiglia Nibble iniziarono ad abbandonare la grande casa verde. No, ragazzi, siamo una famiglia! Possiamo farcela! Andiamo, Marlin, fatene una ragione! Quello è un gatto e noi siamo topi! Non ci lascerà mai vivere in pace qui! È stato un buon bello vivere in questo attico finché è durato! Non dimenticheremo mai i nostri giorni qui! La famiglia era sempre meno numerosa. Ogni giorno che passava la paura del gatto diventava più profonda tra i Nibbles. Iniziarono a lasciare l'attico uno dopo l'altro. Stuart il ballerino, Jenny l'intelligente, Chomp il masticatore, tutti erano partiti. L'inseguimento andava avanti. Non importava quanto i topi fossero attenti, il gatto riusciva sempre a trovarli. Giorno dopo giorno diventava pericoloso rubare il cibo. Basta! Ora dobbiamo fare qualcosa per quel gatto. Ho bisogno di idee. Dai, la famiglia Nibble è famosa per avere fantastiche idee. Giusto? Non di nuovo. Io ho un'idea. Perché non andiamo a lamentarci con gli umani del gatto? Possiamo dirgli che è lei che finisce tutto il cibo. Cosa? Questa è una buona idea. Ma il problema è che gli umani non sono abbastanza istruiti per capire le nostre parole. Sì, giusto. Questo è il problema. Andiamo, spremete i vostri piccoli cervelli, Nibble. Ho capito. Se ci pensi, il vero problema è che non riusciamo a vedere il gatto arrivare, giusto? Voglio dire, noi facciamo le nostre cose da topi e poi all'improvviso quella cosa salta fuori dal nulla. Ah, sì, è proprio vero. Assolutamente. Verissimo. È successo proprio così quel giorno, mentre stavo leggendo quella ricetta sul bancone. Ah, chi prendi in giro? Sappiamo tutti che non sai leggere. Stavi guardando i topi in giardino. Tranquilli tutti quanti. Sì, Sammy, dicevi? Quindi, che ne pensate di fare qualcosa che ci permetta di sapere dov'è il gatto in ogni momento? Così, se è nella stanza con la signora, possiamo fare uno spuntino in cucina. Ha senso. Ma come facciamo? Suoniamo il gatto! Cosa? Vendere il gatto? Voglio dire, non voglio fare la viziata antipatica, ma a chi possiamo vendere il gatto? Chi lo comprerà da noi? No, non scontiamo! Suoniamo! Mettiamogli un campanello al collo! In questo modo suonerà ogni volta che farà un movimento! Quindi, ogni volta che sentiamo il campanello, sapremo che è in giro! Verrà a cercarci e noi non saremo lì! Vorrei proprio vedere l'espressione sulla sua faccia! Eccellente! Questa è quella che chiamo un'idea folgorante! Ti meriti il pezzo di torta più grande per questo! Il più grande! Finalmente vivremo in questa casa senza aver paura! Questa è l'idea migliore! Urla! Quelli che se ne sono andati saranno così dispiaciuti! Non scapperemo! Questa è la nostra casa! Oh, sono così orgoglioso di te! Sai una cosa? La tua idea dovrebbe essere celebrata, Sammy! Dichiaro quindi questo giorno nella storia della famiglia Nibble come il giorno di Suona il gatto! Suona il gatto! Suona il gatto! Sì! Posso fare una domanda molto sciocca? Io sono solo un vecchio topo che cerca di comprendere la nuova generazione. Lo sapete. Perdonate la mia lentezza, ma siete tutti sicuri di questa idea? Certo che lo siamo. Cosa? Pensi che avremo esultato senza pensarci? Avanti, papà. Non siamo una folla normale che agisce senza pensare. Sì, siamo il tipo di folla che non lo fa. Agire senza pensare, credo. Molto bene, allora. Ho una domanda. Chi farà suonare il gatto? Chi farà suonare il gatto? Sì, voglio dire che qualcuno dovrà andare lì e mettere il campanello intorno al collo del gatto, non è vero? Chi lo farà? C'era un silenzio di tomba. I topi si guardarono l'un l'altro, sperando che qualcuno si offrisse volontario, ma nessuno lo fece. Bene, Jerry potrebbe farlo. Voglio dire, non stavi pensando di dichiarare guerra agli umani? Io dico di iniziare dal gatto. Cosa? No, voglio dire, vorrei, ma devo vivere per guidare l'esercito, per dichiarare la guerra, giusto? Voglio dire, hai visto i denti del gatto? Tu sei un leader. Perché non lo fai tu? Cosa? No, voglio dire, cosa fareste tutti voi se mi dovesse succedere qualcosa? Io non posso farlo al tuo posto. Qualcun altro lo farà. Ditemi chi farà suonare il gatto. Nessuno era pronto a rischiare la vita, né Jerry né Merlin stessi. Dopotutto, una cosa era dire qualcosa di coraggioso e un'altra era farla davvero. E nessuno della famiglia Nibble aveva il coraggio di mettere una campana intorno al collo di un gatto. Presero le loro cose e lasciarono l'attico. E così la grande casa verde era libera dai topi. Un'idea? Non importa quanto grande, è inutile se non puoi metterla in pratica.